This holiday season, you know what I have on my wish list? Adventure. That's why I got a new Honda during the Happy Honda Days sales event. They have a whole lineup of rugged, all-wheel drive SUVs, CR-V, Pilot, Passport. But at the end of the day, I drove off in a new HR-V with a bunch of safety features. And best of all, I got it on clearance. So don't just sit around knitting an ugly holiday sweater. See your local Honda dealer for Happy Honda Days clearance pricing today. This podcast has been produced with Pod Cleaner. Fa un po' freddino. Ma perché sei gagionevole? Un pochettino, sì. A me piace, guardate, io sono in maglia corta. Sempre no, io so qualcosa. C'è il burka. No, c'ho il keyway. Senti, ma è vero che ci odiano? Ma voglia, abbiamo bloccato un ascensore per 78 minuti più o meno. Perché, quindi c'era anche un motivo, dici che sì, ci perché odiano. L'ascensore supportava un peso massimo di 1200 kg per 16 persone, però distribuite a 10 kg l'una, per cui praticamente devono essere persone da 10 kg, come no, 10 bambini intorno ai 5 anni di età. I have single ticket, yeah, this is valid, yeah, for 2 hours, one direction, our correct for all public transportation. Perché gli sta rispondendo in tedesco? Infatti, lei parla in inglese. Scusa, secondo te, ha iniziato a parlare in inglese, poi dopo. Io. Next ticket is day ticket. This is valid, there's 3 o'clock in the night, a.m. the next day. Sì, sì, ma finta di capire. Comunque è palesemente ubriaco, secondo me. Lui dice. Italian Podcast Network presenta Fatality. Dietrologia videoludica, il lato B dell'industria del videogioco. Carissimi amici di Dietrologia Videoludica, bentornati a questo nuovo episodio, il sesto della seconda stagione. Vedete che stiamo continuando a confermare l'episodio bisettimanale, questo ci fa veramente molto piacere e soprattutto ci fanno piacere i complimenti che stiamo ricevendo. Prima di presentare chi accompagna questo con me, chi mi accompagna a me in questa headset, diamo i riferimenti che sono www.dietrologiavideoludica.it, è il nostro sito. Dietrologia Videoludica lo trovate su Facebook e su Google Plus e chiaramente anche su iTunes, dove potete abbonarvi tranquillamente al nostro podcast audio, che è questo chiaramente, e Dietrologia Vide @dietrologiavide, che è il nostro Twitter, dove potete tranquillamente cercarci e mi piacciarci a darci e non ho mai sentito anche un'introduzione così più bella più dai tempi in cui Luca Giurato ebbe l'ictus. Ma io ancora mi devo presentare, maledetti, lo so, però. Comunque non inizio da te, perché chi non muore si rivede, ma a volte anche chi muore si rivede, perché come possiamo vedere ogni lunedì su Fox, questa è una battuta sottile, la capiscono in pochi, Alex Raccuglia. Ciao, mi sto toccando le palle comunque. No, ma non era perché, non è perché devi morire per rivederci, è perché si dice chi non muore si rivede, ma in realtà con The Walking Dead si rivedono anche quelli che sono morti, insomma. A volte sì. Giusto, Marco Gualdi? Eccomi, vi saluto, ciao, alla prossima puntata. No, troppo veloce? No, appena iniziata. Benvenuti a questa nuova puntata. Questa puntata che andiamo abbastanza veloci. Allora, la puntata che si chiama Fuori dal tunnel, puntata ideata da Alex. E quindi poi dopo, ovviamente, nella parte dell'osservatorio avremo modo, insomma, di sviscerare questa sua idea. E quindi Alex non poteva non essere presente, anche perché tanti ogni tanto dicono: ma Alex c'ha da fa. È come tutti quelli che c'hanno da fa, però non è come Scaletta. Scaletta ci ha proprio salutato. Alex ogni tanto, quando capita, se vuole, insomma, lo sa che può, quando poi, anche perché poi proprio lo dirò dopo nell'osservatorio, proprio da questa puntata inizieremo una serie di puntate che qualche volta potrebbe anche capitare, perché gli spunti tecnici, gli spunti di riflessione, insomma, fanno sempre comodo. Allora, prima però di partire con l'osservatorio, quindi con la parte focale della trasmissione, abbiamo una delle fantastiche rubriche ideate da Marco, che Marco le ha ideate, però le fanno altri. Certo, io sono grandemente braccio occulto. Certo, sei grande peggio. Il grande peggio. Allora, presentala tu. Beh, c'è un... non c'è un sacchetto, una volta avevamo detto, non presentiamo più niente prima, cioè, di chi sono però, che fanno questa cosa, vabbè, poi allora, non devi presentare. Allora, allora c'è, cioè, questa cosa che verrà detto lo stacchetto, perché è brutto dirlo prima, perché c'è lo stacchetto che lo dice, c'è lo stacchetto che lo dice. Esatto. Ringraziamo cui, Carlo Burigana, chiaramente ringraziamo giustamente per gli assetti, in cui Cesare Giraldi e Simone Gusella ci parleranno di un videogioco e i primi minuti di questo videogioco, che è Borderlands The Pre-Sequel, in cui non so cosa succede, magari Cesare e Simone ce lo daranno, ce lo stanno nella rubrica che si chiama Primo Avvio. Rieccoci amici di Italian Podcast Network, siamo qui per registrare una nuova puntata di Primo Avvio, rubrica che si vuole trattare della prima impressione che abbiamo con determinati titoli. Ho qui alla mia destra Maki. Ciao a tutti. Che ci parlerà questa sera di Borderlands The Pre-Sequel. Quindi io direi di lasciare la parola a te, dato che non sono un grande esperto di questa serie. Sì, grazie Cesare, prima di tutto l'ho giocati tutti e tre, quindi è doveroso dire che Borderlands è un gioco piuttosto particolare, un FPS abbastanza anche free roaming, con delle ambientazioni molto molto grandi, e questo Borderlands pre-sequel è uguale agli altri come concetto. C'è sempre questa ambientazione enorme, un sacco di mondi vari, molto ben diversificati. Però purtroppo, come prima impressione, ci è sembrato fin troppo uguale agli altri. Stessa interfaccia grafica, il motore grafico è uguale a quello del 2, le armi sembrano poco diverse ma alla fine uguali. Cambiano molto invece i personaggi, non abbiamo più le classi, come dire, standard, un po' viste e riviste, del cacciatore, del berserk, della sirena, ma abbiamo addirittura un claptrap, con cui noi abbiamo giocato ovviamente, e altri personaggi meno famosi, meno legati al Borderlands tradizionale. Giocabilità, come ho detto, è la stessa. Ci sono sempre le abilità, abilità che non sono molto rassicuranti in un certo senso come negli altri Borderlands, ma hanno sia dei bonus sia dei malus, ovvero se scegliamo di dare maggior danno a un'arma, dobbiamo quasi sicuramente accontentarci e fare un piccolo downgrade in un'altra statistica, per esempio il tempo di ricarica o la capacità degli scudi e così via. Da quel poco che abbiamo giocato più o meno una mezz'oretta, un'oretta insieme a Cesare, i nemici sono quasi uguali agli altri, abbiamo sia dei mostri, delle creature, come dire, classiche di Borderlands, sia i soliti avversari umani e robot. La storia non l'abbiamo approfondita più di tanto, perché è un gioco... Vabbè, non è importante la storia alla fine in Borderlands, non più di tanto. Sì, non è molto importante, ma poi, anche se lo fosse, è una cosa che si può valutare solo a lungo termine, giocando interamente il gioco, cosa che non abbiamo ancora fatto. Sto ancora aspettando di rigiocare il 2, quindi devo anche rivalutare anche quello, tra parentesi. Quindi facendo un confronto, dato che li hai giocati tutti, secondo te quali sono le differenze, i pregi e i difetti rispetto ai precedenti? È veramente una fotocopia? Ha qualche spunto, qualche novità particolare, oppure è solo una copia e incolla di quello che abbiamo già visto con gli episodi precedenti? Beh, da quello che ho potuto vedere è quasi la fotocopia del 2, il che è sicuramente un bene, perché è sinonimo di divertimento, di longevità, di qualità. Però sinceramente mi aspettavo qualcosina di un po' più rinnovato, di più diversificato. Una cosa molto, molto bella invece che mi è piaciuta molto sono le ambientazioni. Non siamo più su pianeti, come dire, classici da questi giochi, ma siamo sulla Luna, per cui abbiamo delle complicazioni con cui siamo, come dire, non abbiamo molta familiarità. Per esempio l'ossigeno, anche se ho scelto Claptrap, che essendo un robot non ne ha bisogno, però i personaggi umani hanno bisogno dell'ossigeno ovviamente per respirare, quindi abbiamo delle stazioni in cui ricaricare la bombola. Abbiamo la gravità ridotta giustamente, per cui i salti e i movimenti ne risentono. Per il resto però a me è risultato un po' uguale, stesso metodo per avanzare con questi edifici chiusi a cui si scambiano dei combattimenti all'aperto, in cui si può scegliere anche di scappare, anche se non è mai un'ottima idea, perché si attirano sempre un sacco di nemici tutti insieme. E direi, cosa consiglieresti ai nostri ascoltatori? Secondo te, alla fine, a livello di gioco, essendo molto simile ai precedenti, merita di essere comunque provato? Ovviamente è una prima impressione, è una tua sensazione superficiale, non può essere una recensione chiara, non puoi averne la certezza, magari cambi parere giocandolo più approfonditamente, però... Beh sì, questo è ancora tutto da vedere. Esatto, ma consiglieresti di concentrarsi su questo capitolo, ad esempio recuperare i precedenti per poi aspettare un eventuale Borderlands 3? Beh, per chi non ha mai giocato Borderlands non è che ci sia una particolare esigenza di iniziare dal primo, anche iniziare da questo qua, il pre-sequel, chiamiamolo il terzo, va benissimo, perché non c'è una continuità a livello di trama, non ci si perde niente degli episodi precedenti, si ha un gioco di sicuro molto divertente. Invece per chi li ha giocati tutti non è poi così una necessità giocare a tutti i costi questo nuovo capitolo, o almeno non adesso, magari più avanti quando calerà un po' di prezzo, per cui insomma l'investimento sarà più meno esoso. Ma tu hai sentito giocando la noia della ripetitività delle meccaniche, oppure hai comunque lo stimolo di andare avanti a giocare? Cioè, un giocatore che ha già provato, ha già approfondito, magari ha già finito con tutte le espansioni i capitoli precedenti, secondo te si potrà annoiare provando un titolo così simile? Io penso di no, perché secondo la mia esperienza, che ho finito in tutto una decina di volte, sia il primo sia il 2, su PC e su Xbox 360, sono veramente patito di questo gioco. Nonostante l'abbia trovato un po' uguale, secondo me non stanca mai, è uno di quei giochi che riesce sempre a divertire. È ben realizzato sotto tutti i punti di vista, soprattutto il gameplay, per cui è anche molto impegnativo in alcune parti. È un gioco che punta anche molto sull'esplorazione, per cui insomma c'è sempre qualcosa di nuovo da fare. Cavolo, punta sul loot, sul bottino. Certamente, sulle armi. È quella la cosa principale. Le armi sono veramente il punto forte di Borderlands, infatti lo stavo per dire. io ho passato moltissime ore alle macchinette, ai mercanti per insomma per rivedere un po' il mio equipaggiamento, vendere, comprare cose nuove, armi con pregi e difetti. C'è quella più potente ma meno precisa, c'è quella che è più potente e più precisa però richiede un livello più alto e ha dei malus. Insomma, c'è veramente di tutto e di più da fare in questo gioco, per cui molto molto consigliato. Quindi io chiuderei questa rubrica con un rapido riepilogo, diciamo, per gli ascoltatori. Secondo te, in breve, in un minuto massimo, i pro e i contro, e se quindi questo gioco è consigliato o meno? Allora, i pro, allora, abbiamo giocato su PC, quindi la grafica ha potuto dare il meglio di sé ed era veramente ottima. Giocabilità veramente a livelli altissimi, e rigiocabilità probabilmente sarà alta come gli altri due capitoli. I pro, ci saranno sempre le ambientazioni enormi, un sacco di nemici diversi, anche se, come dire, molto classici, molto uguali agli altri, a quelli di episodi precedenti. Missioni molto divertenti, anche varie. Ci saranno delle ovviamente delle missioni in cui bisognerà uccidere un sacco di nemici, bisognerà infiltrarsi in delle basi, oppure fare, per dire, consegne da una parte all'altra di una mappa. E per quanto riguarda i contro, come ho detto, troppo uguale agli altri, anche se forse non è poi così male, dato che è veramente bello come gioco. Nemici un po' uguali, l'interfaccia grafica che è identica, hanno fatto veramente copia e incolla, e per il momento non ho altri contro da segnalare. Però di sicuro è un gioco che per i fanatici della serie è da giocare a tutti i costi. Per chi invece cerca un ottimo FPS, sarà sicuramente un ottimo investimento più in là, quando calerà di prezzo. Magari recuperato con tutte le espansioni, quello sarebbe di sì, piano. Magari nella Game of the Year Edition, che tanto uscirà sicuramente, basta che venda 3 copie e la fanno. Niente, abbiamo chiuso, abbiamo finito qui e ci sentiamo alla prossima volta. Saluto, ciao, ciao. Ok, grazie Simone, grazie ovviamente a Cesare. Cesare che fra 3 secondi ovviamente lo ritroveremo con noi, però questa... materializzando nello studio dislocato. Eh sì, perché purtroppo però ha cacciato Simone nel frattempo. Vabbè, sono tutte cose sempre quantico spazio-temporali. E a questo punto lanciamo la parte centrale della trasmissione, che lo stacchetto fra poco vi dirà, ma non prima di farvi sentire questi 15 secondi di questa canzone che ovviamente introduce il tema che Alex ha pensato per noi. Sono fuori dal tunnel del divertimento. Sono fuori dal tunnel del divertimento. Quando esco di casa e mi annoio, sono molto contento. Quando esco di casa e mi annoio, sono molto più contento. Osservatorio dietro ludico. Lo abbiamo appena sentito con la rubrica precedente preregistrata, perché in realtà nei fenomeni quantistici che noi generiamo facendo podcast, dove si incrina lo spazio e il tempo, non sapevamo che questa sera sarebbe stato con noi, e invece è con noi proprio per fare questa nuova puntata di Osservatorio Videoludico, Cesare Giraldi. Buonasera a tutti gli ascoltatori di Etrologia. È sempre bello registrare un osservatorio magari dal vivo e non preregistrato. Preregistrato, è vero. Io ti faccio anche i complimenti perché l'osservatorio sulla Games Week è piaciuto molto. E devo dire che siete stati. Tant'è che ti ho citato anche nella puntata che è uscita, nella puntata precedente, quella precedente a questa, perché in effetti poi facendo la rubrica primo accesso e parlando di Assassin's Creed, che è un primo accesso, giusto, Unity, primo accesso, sì. Abbiamo constatato che in effetti Cesare Giraldi c'aveva ragione, cioè un gioco del genere non è ancora pronto per uscire. Sì. Cesare l'ha detto con tutta quanta la simpatia e l'innocenza di uno che va a una Games Week e dice vabbè, ma questo è il codice di prova, demo, esatto. No, in realtà no, era la versione definitiva, sembrava più un accesso anticipato che un primo avvio in realtà. Esatto, no, ma infatti un accesso a noi l'abbiamo messo nella rubrica accesso anticipato, quindi eccesso anticipato. Va bene, allora dicevamo che con questa puntata, con il buon Alex, ci sei ancora Alex, no? Sei sì, sempre sì, qui con assolutamente noi. Sì. Oh, perfetto. Inauguriamo anche una serie di puntate che probabilmente continueremo a fare e che secondo me sono degne di etologia videoludica, che non parla solo di videogiochi ma parla anche dei videogiocatori, del mondo dei videogiochi. Appunto, inauguriamo una serie di puntate dedicate anche al videogiocatore ex videogiocatore, cioè nel senso a quelle persone che sono anche un po' borderline, che conoscono i videogiochi ma che magari non li giocano più da tanto tempo. Perché ridi? No, è bellissimo la definizione di borderline. Mi piaceva tanto. E che in realtà, voglio dire, hanno magari comunque considerazioni da esprimere anche non facendo più parte, e cerchiamo poi magari anche di capire, perché ci sarà una prossima puntata dove ci sarà anche Mario D'Amore, cercheremo anche di capire perché videogiocatori d'un tempo. Ma oggi Mario non D'Amore sono... è il nostro gonzo di Berlino? Berlino, ah, esatto, ok, perfetto, esatto, quello con cui... Allora Alex, visto e considerato che insomma questa è una puntata che hai ideato te tipo 2 anni e mezzo fa, no? Anche tutte le puntate quando ancora non c'era la trasmissione, non esisteva DVL, però noi già pensavamo al piano editoriale, sì. C'è stato un piano editoriale dove ci stanno delle cose che ho dovuto levare la polvere per leggere che cosa c'è stato. Sì, abbiamo tolto tutta la parte riguardante Donkey Kong, il nuovo Donkey Kong Junior, esatto, bug, sì, cose, no? Sì, poi cose che purtroppo non sono più attuali, sì, dicevo, visto che l'hai un po' concepita tu e insomma è espressione anche di interrogativi che tu ti poni, ti lascio un po' andare, navigare e condurre, diciamo, questa parte qui, così insomma che io e Marco e Cesare poi ovviamente cercheremo poi di ragionare su queste riflessioni. Ok, grazie. Allora, prego. Ma in realtà diciamo che è una serie di considerazioni che io mi sono fatto nel corso degli anni, prima giocando e poi adesso guardando gli altri giocare e poi sentendo gli altri parlare di videogiochi, sul fatto che i videogiochi sono sempre più diciamo strutturati in maniera molto molto strutturata, che potrebbe essere una sorta di tautologia, perché dato che i videogiochi comunque nel bene e nel male, proprio perché hanno la parola video nel nome, si riferiscono sempre comunque ad altre tematiche, ad altre fenomenologie, ad altre arti, come tra tutte la principale il cinema, cioè l'audiovisivo, nel senso, ho sempre più paura che anche il videogioco, cioè non le parti non giocate ma anche le parti giocate, cerchino di assomigliare sempre di più al cinema, e che è una cosa che si potete vedere anche in altri ambiti. Pensate, quando guardate una partita di calcio, i replay sono sempre più cinematografici, cioè alcuni replay di azioni sembrano quasi delle scene da 300, non so se avete presente, cioè proprio con questi rallentatori al massimo, questi primissimi piani, e di conseguenza anche il videogioco, non soltanto nelle parti nei full motion video, ma anche proprio nelle parti giocate, somigliano sempre di più a qualcosa di cinematografico, di scriptato, di precostruito, un po' come se il giocatore dovesse interpretare e giocare bene una storia che è stata costruita per lui. E di conseguenza, diciamo, questo un po' in generale. Nella fattispecie dei giochi in cui si sa da sparà, come potreste dire voi romani, io purtroppo l'accento ce l'ho sbagliato, mi sono chiesto, ma com'è cambiato il modo di costruire i videogiochi e di conseguenza anche di giocarli, non soltanto dal pubblico generalista, ma anche e soprattutto dal pubblico di chi invece ci gioca quasi professionalmente, quelli che mi hanno chiamati hardcore gamer. E allora ho scritto questi bellissimi 5 punti, adesso credo di aver parlato anche abbastanza, e farò queste 5 domande a voi tre che siete degli ottimi videogiocatori, mi darete delle risposte, perché essenzialmente sono molto curioso a tal proposito. Allora, io partirei con la prima, va bene? Vai, vai. Ok, l'evoluzione del level design da Wolfenstein ai giorni nostri si è sempre più su dei binari, cioè nel senso i livelli sono sempre costruiti in un modo quasi come se ci fosse un unico modo per arrivare dal punto di inizio al punto di fine. Ma perché? Marco. Ma io Marco, penso... ti ricordi che c'è una volta che su Archeologia Videoludica abbiamo visto come sarebbe Wolfenstein 3D o Doom? Era Quake. Era Quake, ok. Come sarebbe Quake oggi? Esatto. Cioè, nel senso, col fatto che come uscivi fuori dal binario. C'è stata una serie di allarmi. Ma io penso che un po' sui binari ci sono sempre stati i giochi. Diciamo che all'inizio erano proprio dei vagoni. C'erano dei livelli, te lo facevi e andavi dopo. Non c'era una vera storia. La storia era secondaria, era più che altro il pretesto per andare a mangiare le pillole nei labirinti, saltare da un alieno all'altro. Invece, ovviamente, con. Io qui ti correggerei subito, però in realtà. Correggi. Perché. Tanto me ne smatto, quindi. Però correggi. No, ti correggo uguale, però. Cioè, nel senso che in realtà non erano dei binarioni o dei vagoni, c'era un livello, poi il modo in cui tu lo approcciavi o lo finivi o lo completavi era affar tuo, a parte Donkey Kong, ogni dì. Ma dipende, insomma, no, perché ma cioè, secondo me scusami se ti interrompo, secondo me però è diverso, perché in quel caso il modo, l'unico modo di affrontare il livello era parte integrante della struttura puzzle del livello stesso. Infatti erano più che dei binari, dei vagoni, cioè tu c'hai quel vagone, ci devi giocare, però più di quello. Allora erano dei vagoni, erano dei vagoni, quindi va bene, sempre nel demo adesso, poi dopo sono arrivati alla stazione vagoni ed è diventato un binario, triste e solitario. A volte triste, sì. Perché? Perché probabilmente la storia, che prima era, diciamo, una cosa più relegata a 2-3 righe dentro alla confezione, dentro al manuale, poi è diventata sempre più non solo un background, ma è diventato proprio il fondamento del gioco stesso. Quindi si dava un inizio, uno svolgimento, una fine. E di conseguenza le storie più semplici da raccontare sono quelle che sono pilotate, che sono guidate. Se io ti devo raccontare una storia, ma poi tu fai come ti pare, non c'ho lo stesso risultato. Poi magari dopo, quando parleremo, se ci sarà da parlare dei giochi qui di free roaming, un po' di differenza, se ci sarà. No, tanto c'è sempre ragione tu, quindi. Appunto, quindi dopo ne parleremo. Esatto. Allora, perfetto. E quindi diventano sempre più simili a dei racconti, a dei film, perché noi siamo comunque la civiltà della televisione, dei film, quindi noi dobbiamo vedere film, dobbiamo farli diventare la realtà quasi, e quindi probabilmente anche i videogiochi hanno subito questa trasformazione, quindi stanno diventando, giusto, c'ho ragione, no? No, assolutamente, certo, no. Io penso un'altra cosa, però, vabbè, cioè, no, poi, però c'hai ragione tu, però c'ho ragione io, quindi esatto. Non c'è problema. E tutto qui, insomma, di conseguenza, diventando sempre più strutturate, sempre più cinematografiche le storie, automaticamente però possiamo dire che è strutturato, televisivo. Televisivo, ok, perfetto, e soprattutto procedurale, questo oramai è diventato il termine fondamentale e anche un po'. Com'era? Era, non lo so, non mi ricordo. Logaritmo. Bravo, okay. Allora, invece, secondo me, io, a parte che è cambiato l'hardware, e quindi è cambiato anche il modo di sviluppare i giochi, conseguentemente era inevitabile che comunque il medium cambiasse. Perché è cambiato invece in quella direzione? Cioè, nel senso, perché certi giochi particolarmente spettacolari, tipo facciamo l'esempio di Call of Duty, no? Perché Call of Duty, mentre io sto sparando a X, voglio andare a destra, no, devo andare dritto. Perché secondo me in realtà i giochi vanno verso, a parte i giochi veramente hardcore, vanno veramente verso una semplificazione per certi versi e verso una contaminazione del medium, come ha detto poi ovviamente anche Marco, perché c'ha ragione. Il fatto che comunque vogliono assomigliare a dei medium che sono più alla portata di tutti, quindi anche un po' più passivi, e anche perché il videogiocatore è invecchiato insieme ai videogiochi, secondo me, e quindi di conseguenza ma non tutti sono videogiocatori da 20 anni, lo so, però 5. Chi è che caccia i soldi? I tantissimi quarantenni o i pochi ventenni, questo, o ancora peggio, questo lo dici tu, che ce stanno pochi come tantissimi quarantenni che giocano, ce ne stanno tanti, ce ne stanno tanti. Una generazione come la nostra, che alcuni hanno usato la baionetta, altri invece ancora continuano, vedi te per esempio, però c'hai 45 anni, però li mostro meno, quindi mostri meno. Vuol dire che giocare va bene. Cesare, tu che invece che sei di una generazione, due generazioni anzi, anche quasi tre volendo, buttiamoci le massime, ma che casino. Allora, secondo me ci sono almeno altri due punti di vista da sottolineare. Il primo è che se comunque i giochi mainstream hanno una tendenza alla semplificazione, anche per ovvie ragioni, ossia per il fatto che agli stessi sviluppatori dispiace che la maggior parte dei giocatori non finiscano i giochi, e questa è una statistica abbastanza confermata. Mi ricordo che erano uscite ai tempi dei Assassin's Creed 2 delle notizie dove gli sviluppatori dichiaravano in modo soddisfatto il fatto che il 70% dei giocatori avesse completato il gioco. E questo secondo me rende l'idea del fatto che noi che stiamo... Poi le cose sono cambiate, Cesare, sappiamo che il 70% dei giocatori ha smesso di giocarci per Assassin's Creed. Però diciamo che l'esempio forse non è il migliore, però comunque secondo me questa cosa l'ho sentita pure io, sì, in effetti il fatto di non finire i giochi per chi poi li scrive è come se uno diceva ha fatto il film più bello del mondo ma tu al primo tempo te ne vai. Esatto. O ha fatto il libro più bello, la storia più bella dell'universo, ma poi gli ultimi capitoli li strappi e li bruci. Sì, perché la tendenza a voler raccontare una storia, questa ondata di autorialità nei giochi, nei videogiochi e anche nel modo in cui sono scritte le sceneggiature, chiaramente è qualcosa che blocca molti dalla fruizione totale del gioco stesso, ossia faccio un esempio: io in questo periodo sto giocando Mass Effect 3 con colpevole ritardo e questo era soltanto per averci il gettone. Esatto, senso, perché... l'ho citato senza nessuna ragione. No, in realtà ci ho dedicato abbastanza tempo anche in giornate in cui a disposizione non ne avevo così tanto, ma mi rendo conto che se ci avessi potuto dedicare per esempio mezz'ora al giorno non avrei saputo cogliere appieno tutti i significati che ci sono sotto al testo, sotto i dialoghi eccetera. E quindi per tornare a quello che abbiamo detto prima, però non tutti i giochi secondo me si stanno semplificando, non tutti i giochi stanno diventando dei binari, e io vorrei citare una saga che secondo me, anche se è un FPS, mantiene sempre quel senso di ariosità del gameplay, e secondo me questa saga è Halo, che da sempre, fin dal primo, sai che DVL è Halo hater, quindi comunque... Vabbè, non tutta DVL, no, diciamo no. Una gran parte. Vabbè, diciamo che io l'ho sempre ignorato, quindi... No, anche noi in realtà non lo odiamo, lo ignoriamo. Una sana indifferenza. No, beh, esatto. Secondo me è una serie invece da prendere in considerazione non solo per il lato multiplayer, che è comunque la componente forse preponderante, ma anche per la questione della campagna, che è decisamente interessante, ha una trama che per molti aspetti ha dei valori e delle punte di epicità non indifferenti, però mantiene alla base questo gameplay aperto, quindi secondo me è una giusta eccezione che bisogna citare quando si parla di giochi che tendono alla semplificazione, di giochi che diciamo vogliono essere, ti prendono per mano e vogliono essere completati. Ma io, guarda, penso, poi ripasso la parola ad Alex che magari poi fa anche una sua controriflessione. Il discorso è questo: questi sono temi che abbiamo sempre sfiorato e che magari qualche volta abbiamo anche approcciato esprimendo considerazioni, però in realtà non li abbiamo mai approfonditi realmente. E secondo me, e io continuo ad essere di questa opinione, l'ho già detto in diverse occasioni, si creeranno due, se non addirittura tre tipi di pubblico che si approccia a un medium che si sta radicalmente trasformando, ossia quello del puro intrattenimento, che è appunto simile a un'esperienza narrativa. Quindi facciamo degli esempi? Cage, sì, anche se Cage ancora non è stato ben assimilato né dal videogiocatore puro né dal casual, oppure dal, perché ancora forse probabilmente è veramente quello che può diventare un'esperienza interattiva come i giochi della Telltale, esatto, che però ancora magari, però insomma secondo me si andrà verso quella direzione e verso chi gioca i giochi indie, quindi una concezione più tipicamente classica del videogioco, e e quelli che invece rimarranno legati a videogiochi dove la sfida e sì, appunto, la sfida diventa l'elemento preponderante. Questi sono i tre elementi fondamentali. Chiaramente una major che investe 250 milioni di dollari, così come è stato fatto con GTA 5. Destiny quanto ne è costato? 300. Destiny addirittura di più, mi pare 300-400 milioni di dollari. È chiaro che un gioco così, un gioco da 250 milioni di dollari, deve essere inevitabilmente dedicato a una fascia di pubblico non ampia. Di più te lo devi installare anche nei tostapani, capito? Cioè, nel senso, te lo devi, quando compri un qualcosa già c'è dentro, insomma, capito? E questo chiaramente imbastardisce il genere, no? E secondo me anche in senso positivo, poi, non necessariamente in senso negativo. Alex è rimasto senza parole. Pronto, mi sentite? Ah, scusate, si era proprio staccato il cavo. Interessante il fatto che mi avete citato Halo, Destiny e poi probabilmente anche GTA. Se ci fate un pensiero, sono dei giochi costosissimi. Sviluppare un gioco come questo, appunto, costa centinaia di milioni di dollari e non decine, centinaia, significa un fottigliardo di soldi. E questo secondo me perché se si vuole, più si dà spazio all'interpretazione del giocatore, cioè più si dà, il livello diventa ampio, perché possiamo dire fai quello che vuoi, ti veniamo noi dietro e non vieni tu dietro a noi, significa che dare tutte le possibilità e sviluppare tantissimo materiale che può essere anche non visualizzato mai. Io mi ricordo quando è uscito GTA, l'ultimo GTA, che è costato l'infinito e mezzo e tutti l'hanno giustamente 250 e tutti l'hanno giustamente definito un gioco abnorme, bellissimo, perché definito in ogni singolo dettaglio. Ma significa che centinaia, se non migliaia di persone ci hanno lavorato per un sacco di tempo per far sì che questa città fosse la più vera, più viva possibile, e la più realistica e la più credibile. Questa cosa necessita, puoi sviluppare giochi di questo tipo oggi, non 10 anni fa, ma oggi costa un sacco di soldi, perché c'è bisogno di un sacco di persone che si mettano lì a creare ogni singolo piccolo aspetto della città. E ripeto, secondo me anche questa, le boundary, cioè i limiti che vengono dati, dipendono anche dai limiti di budget. Nel senso, se possiamo spendere 10 milioni di dollari, e sono secondo me già una cifra esagerata nella vita, però per come sono fatto io, anche perché per i film sono tanti, non nel senso che sono tanti in senso assoluto, ma nel senso, quando io penso a quanto guadagnerò nella vita e quanto può costare un'opera di questo genere, sono per tanti. Nel senso, spendere questa cifra di 6-10 milioni di dollari, è ovvio che non puoi percorrere tutte le strade, devi incanalare l'esperienza utente nel modo più sottile possibile, in modo che l'utente alla fine giochi un percorso ben strutturato, ben determinato, e non esca dai pali, perché se appena esce dai pali devi comunque costruire altri pali tu stesso. No, appunto, quello che dicevo io, che, sì, che ovviamente vai verso il pubblico più ampio possibile, no? Nel senso che non puoi investire 250 milioni di dollari senza avere la matematica certezza già in qualche maniera che te lo compreranno più o meno tutti. Esatto, che l'hanno comunque, ma l'hanno poi già recuperati subito. Non so se il primo giorno, esatto, giorno. La prima settimana sicuro. Quindi guadagnato tipo 1 miliardo in pochissimo tempo. Ecco, quindi questo ti dimostra il fatto che, appunto, secondo me, Marco e Cesare, non so se magari rapidamente così passiamo al secondo punto. Secondo me, ecco, si va verso queste tre categorie, no? Cioè, nel senso, verso l'hardcore gamer, quello che cerca la sfida, verso quello l'indie gamer o retro gamer che più o meno, insomma, ricerca delle meccaniche più classiche, e verso il pubblico invece da intrattenimento cinematografico che cerca le storie interattive, dove comunque in qualche modo gli si fanno raccontare, perché poi, diciamo, GTA, diciamocelo chiaro, cioè, nel senso, è mascherato da giocone hardcore, però in realtà, cioè, non è la sfida il vero discorso di GTA, insomma. È il gioco da più casual gamer che c'è, alla fine. Appunto, cioè, nel senso, no, ma non potrebbe essere altrimenti. Ma allora, Marco e Cesare, e poi riandiamo ad Alex, così andiamo avanti. Sì, rifammi la domanda, perché in realtà hai fatto 200.000 cose. Ma no, ho detto, cioè, la vedete questa separazione in tre blocchi di pubblico? Non sarà netta, di pubblico? Non sarà netta. Può essere, no, perché sì, in effetti poi ci saranno varie, cioè, si sarà scalata la ma cosa, sì, vabbè, io però proprio indicativamente tre, dico, grossi filoni, secondo me no. Diciamo che per quanto riguarda l'indie, io ovviamente Riguardo, magari forse la parte indie sarà un po' più tra virgolette relegata, perché il casual gamer l'indie secondo me lo gioca poco, e quindi si butterà molto di più sulla narrativa o su qualcosa che si dia un po' di impegno ma che sia fondamentalmente narrativa, quindi quello forse si svilupperà di più. Sì, non è che intendevo essere parallelamente alla stessa sì, importanza. Sì, diciamo che fondamentalmente saranno questi i filoni, però non ci, a parte una preponderanza probabilmente di ciò che è dedicato al casual e poco alla narrativa, diciamo così, no? Non ci saranno grosse sorprese, però penso che sì, alla fine sì, ci saranno questi tre rami. Non so se ne trovate qualche altro, 5, 6. Non so, Cesar. Io direi che il ramo indie secondo me non è così tanto classificabile come ramo univoco. Quello poi morirà secondo me. No, secondo me invece si espanderà e andrà a riempire quella sezione di mercato che era prima riempita dai giochi medi, che adesso non esistono più praticamente. Che intendi per giochi medi? Quei giochi che uscivano scatolati con una produzione diciamo mediocre, non particolarmente costosi, però allo stesso tempo non puntavano a grandi vendite. Tipo Battuta lì. Ibn Battuta, vabbè, quelle più un po' troppo. Forse un po' troppo, diciamo. E secondo me andranno a riempire sempre di più questa sezione di mercato e quindi si espanderanno verso direzioni difficilmente prevedibili. Budget, tu dici zona budget? Sì, anche. Low budget. Cioè, secondo me ci si può aspettare un futuro con titoli indie anche a 20-25 euro, che già ci sono. Mi viene in mente Child of Light, che era uscito a 19,99 ed era per console, una cosa che fino a, secondo me, 2 anni fa era quasi impensabile, un titolo indie a 20 euro. Quelli che puoi definire il tripla A degli indie praticamente. In sostanza sì, conti, che alla fine è un titolo medio. A 20 euro escono gli early access, insomma, cioè, ma anche a te più escono. È diverso secondo me, perché quello è PC e il PC è un mercato a parte. È un mercato a parte, esatto. È una cosa completamente diversa. Invece per console, abituare gli utenti a dei prezzi così alti anche per dei giochi solo in digital delivery non è così scontato. È stato un percorso abbastanza lento. Ci si è arrivati giusto ultimamente. Bene, Alex, riprendiamo. Bene, andiamo avanti. Le redini del cavallone. Beh, a questo punto diciamo che facciamo le due domande in una. Allora, abbiamo visto che siamo passati da essere un pubblico di giocatori hardcore gamer a una massa di giocatori casual. E c'è davvero bisogno che qualcuno ci guidi per mano attraverso lo svolgimento del gioco? Non è che alla fine diventa tutto un unico grande tutorial dall'inizio alla fine? È finita la domanda. Mi basta come risposta. Secondo me sì. Era bella come risposta. Rispondete voglio. Tutti no, sì. Perché in realtà tu fai parte da un presupposto che eravamo un piccolo gruppo di hardcore gamer che siamo diventati una grande massa di casual gamer. Però nel diventare un qualcosa abbiamo portato dentro anche altra gente che in realtà col videogioco non c'entrava. E quindi, anche se può sembrare stupido, in realtà una buona percentuale delle persone che oggi comprano Assassin's Creed hanno bisogno che Assassin's Creed la prima ora gli faccia tutto il tutorial, anche quando poi in realtà le cose funzionano da sole, perché a volte alcune meccaniche di un videogioco sono quasi automatiche. Cioè, io penso a un Uncharted, quando tu salti non salti al millimetro come facevi con Tomb Raider, i primi Tomb Raider, quelli storici, che era il salto una bestemmia, che era il salto oppure, era un po' diverso, oppure ti asciugavi il culo, diciamo, esatto. A volte, perché cioè, in realtà lì, insomma, dopo che hai capito il meccanismo dove devi saltare, in realtà è tutto molto tra virgolette automatizzato, insomma, no? E secondo me sì che c'è bisogno perché appunto allargando il pubblico non è più identificabile come l'hardcore gamer, è il pubblico di persone che comprano quel videogioco e che è diventato di più, che è molto sì. Paradossalmente l'altro giorno siamo andati a vedere Interstellar e c'era un tra i trailer, nei milioni di trailer ci stava il torneo di PES al cinema. C'era anche World of Warcraft, sempre questo. E c'era lo spot di World of Warcraft, e vabbè, gli spot già sono stati, ma il bello di vedere il torneo dove dice vieni al cinema a vedere giocare a PES, le più belle partite. Due partite. Cioè, capite che la contaminazione oramai è un po' quello che diceva Alex prima, no? Quando fra un po' nei replay di FIFA metteranno direttamente il seppia. no? I filtri di Instagram, esatto, capito? Cioè, tipo, che ne so, tipo SimCity. Potrebbero anche aggiungerci, posso dirti, cose, Lens Flare, che esatto. Non lo fanno perché non hanno gli strumenti per farlo in tempo reale, solo li farebbero. Infatti, se vedete adesso, ma se guardi bene, quando c'è proprio replay durante la partita, non riescono a farlo. Quando fanno gli highlights alla fine della partita già ce li hanno, sono molto più filtrati, sono molto più contrastati, cioè l'effetto cinema è molto più evidente. Ma ti dici nelle partite vere? Nelle partite di calcio, sì, è vero, è così. Quando fanno il montaggione finale, quello veloce, si vede che già c'è color correction, cioè, certo. No, ma anche in televisione è questa contaminazione del televisione che diventa cinema e viceversa, purtroppo, poi, perché in realtà fino a che la televisione tende ad andare verso la visualizzazione estetica, anche del cinema ci sta, e quando il cinema invece va all'inverso, che comincia a diventare un po' triste, tipo, ecco, abbiamo avuto un esempio, abbiamo visto un film recentemente, com'era, World Invasion, che è un film di merda, però è spettacolare, e c'ha questa tendenza che da dopo District 9, no, è uscita fuori, no, il fatto di fare il film che sembra anche un po' documentario, che sembra anche un po' live, insomma, una cosa un po' così. Comunque, vabbè, io ho detto la mia, quindi vai con Marco e vai Cesare. C'è bisogno che vengano presi per mano i giocatori, secondo me. Sì, se non vuoi far sentire i giocatori tutti delle capre, o perlomeno la maggior parte, perché il giocatore che gioca vuole vincere, vuole avere una soddisfazione, vuole andare avanti e vuole sentire che è il protagonista e che ha fatto bene quello che sta facendo. Tu immagini la maggior parte della gente che gioca Assassin's Creed, che ha cominciato a giocare con giochi del genere, lo metti dentro Wolfenstein oggi, quello il primo pezzo di labirinto che si perde, che non c'è la mappa, che non c'è niente, bestemmia, sta che se ne va, e non ti comprerà mai Wolfenstein 2 o 3 o 4, perché no, la gente non perché gli devo va. Dare i soldi a te che mi insulti, mi fa sentire uno incapace di giocare, esatto, quando questo è un gioco che deve essere semplice, no? Perché io devo riuscire a vincere, a batterlo. Cesare, non giocare a Warcraft mentre stai facendo la trasmissione. Ah, scusate, no. Mi avete beccato. Comunque, riguardo a quello che state dicendo, direi che si collega molto anche a quello che ho detto io, cioè il fatto che tendono a semplificare i giochi per farli completare alle persone. Però bisogna anche evitare di pensare che tutti i casual gamer siano delle persone che non hanno, diciamo, forza di volontà. Secondo me una persona che... Non tutti, però non, o per una questione di tempo o comunque per una questione di voglia, la gente non va di sentirsi frustrata, è già frustrata per conto suo fuori dal gioco, figuriamoci se deve giocare, deve sentirsi pure frustrata. Questa è una considerazione che non va sottovalutata. Dipende, secondo me, dipende. Cioè, in generale ti darei ragione, però potrei anche pensare che molti casual gamer sono potenziali hardcore gamer, quindi messi davanti ad un gioco che testa le abilità. Possono passare, però diciamo il percentuale Marco, secondo me qui esce fuori la differenza generazionale, no? Nel senso che io, allora, considerando Cesare un ragazzo intelligentissimo, lui esprime una considerazione che in effetti è giusta dal suo punto di vista, perché comunque magari non ha ancora una visione successiva, e invece tu la vedi dal tuo punto di vista, perché non consideri il fatto che ci sono ragazzi di 20 anni che magari non hanno questo concetto della frustrazione, magari, no? Nel senso, secondo me questo è anche interessante. Esatto, ma infatti lui dice, giusto, sono dei potenziali hardcore gamers che però non lo diventeranno mai, perché non hanno la possibilità, non hanno gli strumenti, non è così scontato, dipende dai giochi ovviamente in cui si imbattono, cioè possono passare secondo me da un Assassin's Creed a un gioco più complesso. Io cito ad esempio un Rayman Legends, che anche se ha un aspetto cartunesco e quasi infantile, a livello di sfida offre tantissimo, ha un livello di difficoltà in alcuni livelli veramente alto, e secondo me quello può far venire voglia di dedicarsi a giochi più complessi, e da lì magari passare a un gioco di ruolo, magari action, passare a un Mass Effect, poi passare a cose ancora più complesse. Planescape Torment magari. Pizzi sta ancora all'inizio. Ho iniziato da poco. Sei uscito dal Mortuary? No, perché non ci ho più giocato ancora. Che frustrante, senti frustrato. No, non mi sento frustrato. No, sono tranquillo, perché in realtà io ci ho giocato ai vecchi giochi di ruolo, a Baldur's Gate, a Neverwinter, frustrato perché ci hai giocato adesso. Anche perché poi allora era normale il fatto che morivi dovevi morire, a scatafascio, e più morivi e meglio era, più imparavi, appunto. Però vabbè, Alex, Che cosa c'è da aggiungere? Secondo me le cose possono essere fatte in vari modi. Qui magari mi tirerò dietro l'ira. Te la faccio io poi una domanda. Finisci la riflessione e poi ti faccio la domanda. Ok. Secondo me c'è spazio per una cosa assolutamente guidata per il newbo, mettiamola così, per il casual, come si suol dire. Però c'è anche spazio per una crescita del newbo, del casual, e al punto tale che un buon game design può far sì che il gioco inizia come una cosa facile e poi diventa una cosa assolutamente caotica e incomprensibile per chi l'ha appena iniziato. È ovvio che se si vuole mantenere il range di giocabilità entro un certo numero di ore, perché dopo un po' uno poi si scazza e dice no basta, c'ho altro da fare, ma soprattutto così ha tempo per comprarsi un altro videogioco, e credo che sia questa la cosa fondamentale, è ovvio che si debba fare una sorta di gestione del parco degli utenti e di far sì che insomma si possa portare il più alto numero possibile degli stessi al compimento dell'avventura. Il fatto è che abbiamo tantissime persone, cioè tantissimi livelli di fruizione, ed è una cosa interessante, dato che è un'avventura interattiva, è un po' come se si dovessero scrivere 10 film diversi a seconda di quanto uno possa essere capace di comprenderlo. I film di oggi, le americanate di oggi, hanno dentro un sacco di spiegoni, ma perché? Perché il pubblico cinese, che è quello che ha più soldi, ha bisogno dello spiegone. Magari il pubblico europeo, che è un po' più smart rispetto a quello anche americano, magari potrebbe avere bisogno di meno cose che ti dicono oh, guarda, è successo questo, quest'altro, ti ricapitolo tutto, questo, quest'altro, questo è il buono, questo è il cattivo, questo è il bene, questo è il male, è ben diviso, cioè mi raccomando, hai capito bene, possiamo andare avanti, se vuoi te lo spiego un'altra volta. Beh, un po' come fa Discovery Channel quasi, esatto. Dato che non si possono fare 10 film, se ne fa uno solo, di solito che si cerca di beccare la fetta di pubblico più ampia, e o comunque quella più bassa, diciamo, e di conseguenza funziona anche nei videogiochi, dove probabilmente la fetta di pubblico cioè meno capace, meno skillata, è anche quella più grossa. Certo. Io mi ricordo che in diverse occasioni diversi produttori di videogiochi hanno detto abbiamo sviluppato un sistema che capisce quanto sei bravo e calibra la difficoltà del gioco sulla tua difficoltà, però credo che questa cosa non abbia mai funzionato veramente bene. A me è successo con The Witcher 2, e ha detto che erano incapaci e dovevo giocare facile. In realtà invece era il tutorial che era spastico. Era difficile il tutorial. Allora Alex, io ti faccio la domanda. Sì. Vabbè, chi ovviamente segue i nostri podcast sa che Alex ha partecipato, diciamo, almeno a 2 dei 5 delle 5 puntate storiche di archeologia videoludica, che in particolare parliamo di Dragon Slayer e di di Elite. Allora, una persona che nella sua vita ha giocato a Elite e che però oggi non gioca più, quindi vuol dire che comunque quando giocava a cose ignoranti, non è che giocava al giochetto del cazzo. Ma beh, non c'era altro, Beh, no, c'erano un sacco di cose, cioè, voglio dire, c'erano le cassette, noi c'avevamo le cassette a gratis praticamente, quindi è l'epoca, si può dire, insomma, tanto l'abbiamo detto in 50 puntate. Oggi magari uno come te non gioca perché non c'ha il tempo, o magari perché ha perso un po' di disinteresse o roba del genere, ma se tu oggi per un certo punto qualcuno ti regala una PlayStation 4, sì, e tu decidi di dedicarci 3 ore, 4 ore a settimana, ok? Quindi, ad avercene 3 o 4 ore a settimana. No, vabbè, sì. Però tu ipotizzi che comunque dedichi 4 ore a settimana. Ti regalano a 4 ore più a settimana. Ok, tu te le dedichi. A che cosa giocheresti oggi? A Assassin's Creed oppure a... al nuovo Elite che sta per uscire, per dire. Al nuovo Elite, bravo. Posso essere sincero, giocherei a GTA. E poi giocherei a... No, scusa, ho detto una cavolata. The Last of Us. Ho chiesto che giocherai questo tipo di gioco perché devo dire che sono molto, nonostante quello che appunto uno potrebbe pensare, devo dire che sono molto affascinato dal videogioco come medium per trasmettere un certo tipo di messaggio emotivo. Mm-hmm. È vero, è verissimo che molto spesso quando vedo qualcuno che gioca a questo tipo di gioco riconosco le meccaniche comunicative di altri media, che siano appunto i serial televisivi, i film, che sono quelli che si avvicinano di più, a volte anche dei reality show per certi versi, perché appunto il cinema di oggi deve molti reality show come Cops, in cui praticamente c'erano dei cameraman che andavano a seguire i poliziotti che facevano gli arresti, per cui c'è camere che sballonzolavano a destra e a sinistra, tipo Shield. Tipo Shield, esatto. Per cui ripeto, secondo me, io trovo, a me piace molto questo connubio di cose, e mi piace il fatto, nonostante tutto, anche se ho sempre delle grossissime remore, ma questa è una cosa personale, sugli attori digitali, devo dire che mi piace molto come si cerca a ovviare digitalmente in tempo reale a dei problemi che nel mondo pratico sarebbero molto semplici da risolvere, nel mondo digitale invece sono delle cose molto a volte insormontabili. Cioè, se io devo girare uno spot televisivo, ok, chiamo uno scenografo, metto una cosa qui, metto una cosa là, mi arrangio in qualche modo. Se devo fare un videogioco, devo prendere un modellatore 3D che mi prenda, che faccia i modelli. In realtà la cosa è diversa, di solito sì, i modelli più semplici si vanno a comprare, però poi dopo questi devono essere semplificati il più possibile, perché così riescono a essere gestiti dai motori tridimensionali delle console, dei computer. Cioè, questo tipo di approccio del dietro le quinte, come viene fatto, e di giochi di questo spessore, di questa caratura, mi piace tantissimo. E non ti direi un Destiny, perché non sono veramente un impedito con gli spara-spara, lo sono sempre stato, anche quando ero giovane, per cui non lo so. Il nuovo Elite Dangerous si chiama, giusto? Sì. Elite Dangerous, devo dire che tutte le volte che vedo un filmato oppure su YouTube, Star Citizen anche, volendo, che più o sì, meno. Sì, però io sono più legato a David Braben per mio amore platonico personale. Certo. E certo. Devo dire che quando vedo un filmato su YouTube di Elite Dangerous non riesco a togliere gli occhi dallo schermo, ma penso più che altro perché pensavo che quello è Elite 30 anni dopo, cioè come si è trasformato, vero, cioè è vero. Quello era la punta di diamante su BBC Micro, su Commodore 64, io l'ho giocato su MSX per farvi capire con che cacchio di macchina l'ho giocato, e quello si è trasformato oggi, che già allora come tecnicamente era eccezionale, si è trasformato oggi in quest'altra cosa che utilizza altre tecniche, altre tecnologie per stupirmi, però devo dire che posso fare la sborata nostalgica. Oggi Elite Dangerous è visivamente quello che tu vedevi quando giocavi a Elite. Esatto, è vero. È vero ed è bellissimo anche per questo. Però dice, la cosa che mi è piaciuta molto di Elite Dangerous è che mentre Elite fondamentalmente aveva tre cose, ma erano spettacolari, tipo il radar che secondo me già come idea era anni luce avanti, e anche la rappresentazione dello spazio esterno, Elite Dangerous utilizza altri tipi di meccaniche per farti entrare nel vivo, e devo dire che lo stile stiamo degenerando, però devo dire mi piace molto Elite Dangerous il fatto di come hanno reso delle cose che sono fantascienza pura più scienza che fantascienza. Questo credo che sia un po' la mano pesante di David Braben. È un po' come Interstellar sta a Guerre Stellari, cioè sono due film di fantascienza, però uno è completamente fantasia e l'altro è il più vicino possibile aderente alla realtà, e Dangerous utilizza questa sorta di realtà non reale ma però realistica che devo dire che mi colpisce tanto. Detto questo, giocherei ai giochi che ho detto prima, perché le sceneggiature mi sembrano una figata pazzesca. Sì, no, ma infatti oramai io da pseudo quasi ex giocatore, perché comunque anch'io ho veramente pochissimo tempo, se devo dedicare comunque il mio tempo e devo fare una selezione vado lì, insomma. Quindi vabbè, andiamo avanti, va, così almeno facciamo parlare anche un po' Cesare, che sennò mi sta biocca. Abbiamo Cesare quel che dice, che sennò si fa una certa e va biocco. Vai, Alex, vai. Ah, io vado, andiamo Cesare, devo continuare a fare le mie domande, bellissimo, ok, io vado avanti. Ma Cesare ha risposto? Cesare ha risposto. Credo di sì, 2000 anni fa, siamo ancora passato un po' di tempo, sai, come noi siamo a una certa età. No, ha risposto. Okay. Siamo ancora alla banda dei tutorial, in realtà. Poi noi abbiamo fatto 10.000 digressioni. Infatti mi ero un attimino perso. Lui ovviamente per rispetto non ci ha interrotto, però in realtà puoi intervenire anche tu. Certo, dire basta, c'ho da fare. Passiamo adesso al level design, soprattutto dei giochini dove si spara, no? La disposizione dei livelli è: vai da A a B passando eventualmente per C, il che potrebbe andare bene per un navigatore satellitare. E tutti gli eventi però sono scriptati. Questa cosa non va a discapito del realismo. Si sta giocando una simulazione, cioè un modello di un ambiente, oppure si sta giocando un film? Oppure, ancora domanda ancora più raffinata, sì, c'è solo un modo per finire un gioco e tu devi eseguire la sceneggiatura come l'ha pensata il game designer. Questa cosa va a discapito del realismo, oppure il fatto che di avere questi eventi scriptati e di conseguenza più cinematografici aumenta il realismo del gioco? Beh, sono due domande diverse secondo me, però io farei partire Cesare proprio. Io direi di partire dalla prima, che secondo me come risposta si può dare un secco no, cioè quando tu inizi a giocare è come se facessi un patto con gli sviluppatori. In pratica tu accetti la finzione scenica del gioco, che quindi il gameplay che ti ho offerto e tutto il gioco, diciamo, nella sua totalità. Questo si può vedere per esempio nel fatto che l'interazione ambientale secondo me non potrà mai essere completa, cioè non potrai veramente mai, in tempi brevi chiaramente, sentirti all'interno del gioco, quindi all'interno di un ambiente come se fosse reale, cioè non potrai mai interagire con tutti gli oggetti di un gioco molto complesso entro pochi anni. Sì, chiaramente. L'ho detto per ora. E quindi secondo me questa la risposta appunto no, cioè il realismo non è intaccato dal fatto che ad esempio non puoi interagire con tutti gli oggetti, non puoi andare, non puoi prendere quella determinata strada perché c'è un crawl e quindi non ti permettono di passare. Anche perché secondo me il realismo non c'è, diciamo, no? Esatto. Cioè non lo intacca per quello che è attualmente, ma in realtà non c'è, a meno che non giochi ad Arma, però poi lì devi anche degradare la grafica. Diciamo che in ogni caso sì, il realismo è lo stesso realismo che abbiamo noi quando andiamo a vedere un film, che diciamo ok, per noi diamo per scontato che questo che stiamo vedendo sia vero. Esatto. Lo diamo per scontato. È quello che viene chiamata la sospensione dell'incredulità. Esatto, bravo. Per cui un conto è magari avere, che non so, degli eventi scriptati che, diciamo, potrebbero essere realistici, non veri ma realistici. Un conto è magari trovarti sullo stesso percorso, vai da A e B e imbatterti nei muri invisibili e lì magari potrebbe essere. Il muro invisibile è tosto, è quello, quello voglia sospendere l'incredulità. È lì proprio ti uccide. Comunque, Cesare stava. Facciamo finire Cesare, poi dopo rifacciamo. Io ho in mente, ad esempio, un sacco di giochi in cui c'è appunto il classico crollo insuperabile. Cioè, è sempre un crollo. Silent Hill. Vabbè, ma qualunque gioco. No, Silent Hill 2, per esempio, era pieno di muri invisibili perché tu, soprattutto all'inizio, c'avevi police line do not cross, cioè presente le strisce, e tu ci correvi, erano dure, non potevi andare erano le strisce indistruttibili, ma ci sono anche in Batman, tra l'altro, mi ricordo. In ogni caso questa cosa qua secondo me mina sì la sensazione di immersività, ma è qualcosa con cui sai già che dovrai avere a che fare, quindi lo accetti prima di iniziare a giocare. Chiaro, è qualcosa che non fa piacere, qualcosa che dà fastidio mentre giochi, però non è fondamentale, non è qualcosa che distrugge totalmente la sensazione positiva che uno può avere mentre sta giocando. E la seconda domanda me la sono dimenticata, quindi non potrò rispondere. Alex, in realtà non era proprio in forma di una domanda, nel senso, si sta giocando una simulazione, si gioca un film, nel senso, il fatto che c'è solo un modo per finire il gioco, però in realtà hai risposto a tutte e due, cioè, appunto, per cui non va bene, cioè, era una domanda doppia, pensare era 1,5, per cui secondo me hai risposto perfettamente. Il candidato ha dato una risposta. Bravo, possiamo proseguire. Ci piace a noi il candidato, vedi che una volta ogni tanto ne azzeccamo uno giusto. Vai Marco. Ero male. No, come dicevo prima, la prima affermazione l'abbiamo già detto, cioè il realismo lo accetti per quello che è, tu sai che stai giocando un gioco e va bene. Si giocano simulazioni o un film? In realtà un po'. Se potrebbe giochi anche Arma, giochi potrebbe la simulazione. Forse stiamo anche giocando la simulazione di un film, probabilmente, quindi è anche una cosa un po'. Oppure il film di una simulazione. Può darsi. Facciamo Luigi Marrone. Però telefoniamo a Luigi, facciamolo venire. Il fatto che ci sia, diciamo, un solo finale volte proprio, anzi a volte spesso, anche perché la trama deve essere solida, dare più finali significa mettere troppe variabili anche nel gioco che spesso si traducono in bug di infinito numero, tipo i vari Fallout, vabbè non ne parliamo, lì dovrebbero avere tanti finali in realtà in base a come ci si comporta, ma in realtà poi si vede che sono proprio molto limitate queste differenziazioni. E che altro dire? Beh, ovvio che poi quando si va a giocare un gioco in un binario, il binario è fondamentale anche per far restare la trama solida e far vivere quella trama. Se mettiamo un gioco invece dall'altra parte, per fare un esempio, che non è un binario ma potrebbe essere uno Skyrim, un The Elder Scrolls, dove tu c'hai una trama, poi c'hai 200 ore di esplorazione, perché poi tu c'hai 200 ore di esplorazione, e se ti fa la trama principale magari ne sono 10 ore sì e no, è ovvio che è tutto sbilanciato verso qualcosa che ti va a diluire la trama stessa. Quindi se ti vai a giocare 200 ore di gioco e poi 10 ore di trama, per quanto possa essere bella, intrigante, interessante, non ti prenderà mai, perché il tuo scopo è vedere tutto il resto del mondo, e vedere che cosa può succedere se raccogli la bacca, se tagli la legna, se vai a fare oro commerciando con i commercianti vicini. Quindi è anche una cosa fondamentale per dare più impatto alla trama e quindi alla simulazione del film. Il binario è indispensabile. Sì, io molto velocemente dico solo una cosa, perché in realtà poi mancano meno di 10 minuti alla fine di questo osservatorio, e quindi volevo dedicare anche spazio all'ultima domanda che Alex ha scritto. Io l'unica cosa che dico è che a me, per esempio, l'ossessione delle storie interattive, nel senso che tu puoi interagire realmente nella storia, mi interessa fino a un certo punto. Se c'è, bene, se non c'è non mi importa, cioè, nel senso, come ha detto Alex prima, in realtà, non so chi l'ha detto, insomma, comunque quando tu scegli di giocare un gioco strettamente narrativo che ti vuole raccontare una storia dalla A alla Z, tu lo accetti implicitamente questo discorso, come se tu guardi un film. L'unica differenza è che per farti continuare la storia, per farti raccontare, devi fare un X numero di azioni. Per il resto, insomma, io non sono contrario. Quindi per me il discorso della simulazione o giocare un film, per me giocare un film va anche bene allo stato attuale, ma per quello che ho detto, insomma, anche prima, per basta fatto che non ci stanno alien e cazzarella come che sì, il problema è, ecco, che probabilmente noi tante volte tendiamo sempre a dire che il videogioco dovrebbe assumere anche dignità narrativa così come gli altri medium. Il problema è che oltre a protestare e a richiederlo a gran voce, in realtà il videogioco ancora non fa molto perché venga poi ovviamente considerato a pari dignità di altri medium narrativi, insomma, perché purtroppo di storie veramente veramente potenti da un punto di vista, credibili da un punto di vista narrativo, ce ne sono ancora poche, insomma. Ecco, forse The Last of Us un po' ha dato una botta seria da suo punto di vista, perché certo non sono stati i tre film giochi di David Cage che erano interessanti, ma, però purtroppo poi alla fine non hanno saputo mantenere la stessa dignità con la quale quello primo di Walking Dead anche, insomma, anche stato abbastanza, anche se lì è più la prima stagione di Telltale, sì, dici? Sì. Pure lì. Beh, sì, quindi lo citavi come positivo, sì, ma okay, sì, non ho capito. Vai. Sì, positivamente, sì, sono d'accordo. Ma adesso posso farvi una domanda? Volevo proprio, prima ancora che tu lo citassi, Last of Us, volevo proprio farvi una domanda. L'avete giocato tutti e tre? Sì, io sì. Noi sì. Ok, sì. Perfetto. Essendo voi. Lacrime virili. No, essendo. Allora io non l'ho giocato, però lo conosco. Voi cosa avreste fatto? Gliela avreste lasciata o l'avreste fatta scappare la bambina? Pensa che questo è stato, ecco, ed è stata la prima volta, per questo che io poi l'ho citato positivamente, è stata la prima volta che io e Marco alla fine siamo messi a discutere sul finale, così come faresti con un film. Ed è stata la prima volta, e questo è indicativo, per esempio, positivamente. Ed è una cosa positivissima. Ed è una cosa positiva, indicativa e positiva. Allora, cosa avremmo fatto? Non lo so, ne abbiamo parlato tanto. In realtà io ho preso l'impulso generoso e umanista, avrei fatto morire la bambina. Però poi dopo, riflettendoci, comprendo... Cioè, la cosa bella è che il gesto di lui, del protagonista, è... tanto brutale, tanto egoistico quanto effettivamente umano, cioè nel senso è credibile quello che lui fa, ed è questa la cosa bella. Non è un finale ad gazzum buonista oppure fatto lì solo per scioccare. E hanno fatto senza benissimo a non lasciare, secondo me, la scelta al giocatore. Al giocatore, no, esatto, non ci avrebbe avuto senso in quel contesto. Secondo me, lì a quel punto loro hanno avuto il coraggio di raccontarti la storia in quel modo, dando la possibilità a lui di fare questo gesto, che è un gesto duro, terribile, umano e quindi assolutamente grandioso allo stesso tempo, perché secondo me poi è un po' questo, insomma. Marco, scegliere la menzogna, beh sì, ma la menzogna fa parte della vita, certo, in generale. Io infatti quello che ti ho detto è che assolutamente avrei fatto più la stessa cosa, ma senza, ma tu per altri motivi, perché tu sei uno stronzo e basta. No, perché c'è non ho capito la risposta, scusa Marco, non ti ho sentito. No, Marco, no, io Marco la stessa cosa, io sì. Gli ho detto, lui dice, ma perché sacrifichi il mondo, a me non sti cazzi, ero io che contrastavo la sua idea, poi in realtà, in effetti, riflettendoci bene, è coerente e c'ha senso. Ma ok, e tu Cesare? Stavo pensando, perché l'ho giocato ormai qualche mese fa e non vorrei essermi dimenticato degli aspetti della trama, ma io avevo colto durante le fasi finali come se questa bambina stesse per essere sacrificata praticamente in modo inutile, perché la sensazione che ho avuto io è che fosse solo una possibilità molto remota quella di riuscire a produrre una cura. No, è che in realtà loro, per arrivare a una conclusione, avevano bisogno di studiare quel cervello, ed è chiaro che per studiare il cervello lei doveva morire, cioè questo poi è chiaro. In realtà quello che avrebbe portato la cosa non è definito, non è così definito, cioè non è né definito in senso positivo o in senso negativo, non ti dicono chissà, è un qualcosa che va fatto comunque, e che in quel caso andava fatto comunque, basta, cioè nel senso che comunque chiunque disinteressato, magari non con un legame verso la bambina, rispetto alla scelta di dover fare qualcosa per l'umanità, quella è una cosa che andava fatta e basta, cioè senza stare troppo a discutere, così come tante altre scelte brutali sono state fatte magari nella vita. E lui ha preso la cosa bella del gioco, stavo dicendo del film tra l'altro, è che nella brutalità di lui, come si chiama lui? Joel, la brutalità di Joel, che a un certo punto diventa feroce, cioè diventa veramente una persona estremamente brutale, un assassino bastardo, proprio cattivo. Quando tu entri nella sala operatoria, ti danno l'opportunità di scegliere quanto tu sei concentrato nel salvare lei o quanto sei arrabbiato, cioè lì tu puoi commisurare il tuo finale, perché puoi decidere se ammazzargli i dottori o no, per esempio, e poi, cioè, se tu li ammazzi tutti, li ammazza brutti poi, come al solito, ed è una cosa che tu puoi non fare, no? Quindi quella è una cosa bella, perché ti fa vedere veramente come ci sei arrivato in quel momento, no? Quindi sei carico dell'emotività, della rabbia, del fatto che sei arrivato lì perché hai dovuto per esempio. Anche la parte prima, quando tu arrivi in sala operatoria e ci sono tutte le guardie che ti cercano, puoi fare tutto stealth e non ammazzare nessuno o sterminarli tutti, cioè è una scelta tua. Cosa che ho fatto io? Ho fatto stealth, a sterminio stealth. Tu hai fatto tutte e due le cose, hai stealthato per sterminarli, quindi cioè questa è la scelta che viene data al giocatore, ed è giusto così. Perché a quel punto tu commisuri veramente in che maniera hai interpretato Joel, ma non la storia è quella, quindi andava bene così. È la grande forza del gioco, secondo me, quello di avere una storia così, così monolitica, così fissa, però allo stesso tempo ovviamente molto solida. E io stavo dicendo prima che, avendo avuto la sensazione che questi qua fossero praticamente degli scienziati un pochino improvvisati, cioè la sensazione che ho avuto io giocando è che non avrebbero combinato nulla con quegli studi, quindi di sicuro, se avessi potuto scegliere, l'avrei liberata sicuramente. Bene, allora guarda, siccome il tempo è quasi scaduto, se non scaduto, io direi velocemente, se vogliamo fare l'ultima, oppure Alex, se pensi insomma che più o meno sei già abbastanza soddisfatto, vedi tu. No, sono molto soddisfatto, però magari due parole in cui magari mi raccontate cosa ne pensate. Esisteranno ancora livelli generati proceduralmente, oppure è una chimera degli anni passati? La proceduralità è il nostro pane quotidiano ormai. Sì, no, perché è un termine che dalla puntata precedente oramai è entrata pure DVL, è procedurale tutto sommato. Non lo so, Cesare. Secondo me ci saranno sempre dei giochi che avranno dei livelli generati casualmente, proceduralmente, perché non è possibile disegnare a mano ogni scenario in giochi, ad esempio, viene in mente come Diablo, che sono strutturati apposta perché uno lo continui a giocare e rigiocare all'infinito. Ci sono determinate aree che sono determinate, disegnate a mano e costruite con una certa cura, e altre che non saranno mai generate in questo modo, per la semplice ragione di dare anche un minimo di rigiocabilità. Quindi secondo me entro i prossimi 10 anni io scommetto che ci saranno ancora dei giochi con dei livelli generati casualmente, diciamo. Marco? Io me lo auguro, tutto sommato, che ci siano giochi comunque con una bella dose di fortuità, se esiste questa parola, se no ce la brevettiamo noi come app, e perché comunque rendono il gioco molto più interessante. Però in quel caso non me lo aspetto non tanto nei giochi quelli, diciamo, binario, perché poi potrebbero creare problemi proprio alla trama, però in altri generi di giochi probabilmente diventeranno sempre più procedurali. Che ne so, immaginati un gioco alla Skyrim, un open world con una grossa fetta di casualità buttata al suo interno. Poi dipende da come saranno le tecnologie nei prossimi anni. È capace pure che un giorno sarà possibile fare un gioco con un single player con una bella trama, ma con elementi completamente casuali che non inficiano in qualche modo la durezza della trama. Però io me lo auguro, perché comunque potrebbe dare... Io stavo pensando nella rigiocabilità, però in effetti la rigiocabilità è più da hardcore gamer che da casual gamer, e quindi non lo so, boh, me lo auguro. Però sì, a me non me ne frega niente, devo dire la verità, in questo, pure perché stavo cercando, no, non per la domanda di Alex, però stavo cercando perché, visto e considerato che ne abbiamo parlato, volevo anche citare appunto il primo episodio della scorsa stagione, quindi la 2X01, l'ultimo, dove insomma per due ore e passa abbiamo... Simone Pizzi dava l'addio al podcast di esatto, Bell, dove... no, dove praticamente abbiamo parlato per 2 ore proprio di The Last of Us, perché comunque secondo me ha meritato Mass Effect, non poteva non meritare, anzi forse anche di più per certi versi. Bene Alex, io direi che The Observatory questa volta ci ha dato ennesimi spunti di riflessione, che poi ultimamente stiamo facendo proprio puntate e poi ritorneranno, insomma, quindi tanto ci fa piacere, insomma, il fatto che ci hai dato questa opportunità, perché poi mentre scartabellavo appunto l'ordine degli episodi che avevamo elaborato la scorsa stagione, c'era questo tuo appunto, e in effetti non me lo sono fatto sfuggire proprio perché voglio iniziare, insomma, ad avere l'opportunità di parlare anche di questo tipo di discorsi sia con giocatori che ex giocatori. Quindi faremo vari forum, varie occasioni, quindi insomma. Allora Cesare, vuoi concludere? Scusa, ringrazio io te per l'occasione che mi hai dato. Sì, tanto vabbè, poi dopo ci salutiamo alla fine, noi diamo l'opportunità a Cesare magari di concludere e di salutarci, perché Cesare appunto quest'oggi partecipa solo all'osservatorio, in quanto domani ha l'esame di statistica applicata alla quantistica e procedurale e quindi non possiamo, insomma, che non lasciarlo andare in modo che sia fresco e soprattutto venga insomma passa l'esame, torni glorioso, esatto. Quindi vai Cesare. Vi ringrazio per questa bella chiacchierata, è sempre un piacere comunque parlare con voi, che comunque siete dei giocatori che hanno avuto un'altra esperienza di videogioco per ragioni anagrafiche, ed anche per questo, o forse soprattutto, è così interessante confrontarsi. No, infatti sono d'accordo, perché tu dai dei spunti che sono diversi inevitabilmente e quindi vanno comunque osservati, e quindi ti ringraziamo anche noi, voglio dire, di aver accettato di partecipare a questo club di vecchi maledetti Gerotto Gamers. Esatto. Niente, grazie mille ancora, e per gli ascoltatori di DVL mi trovate magari quando ho tempo per scrivere in qualche articolo sul sito e magari in qualche altro podcast ancora. Perfetto, allora salutando Cesare, ciao Cesare, salutalo ciao, Cesare. Bocca al lupo, ciao, bocca al lupo. Lupo. Ciao a tutti. E io lancio ovviamente passione sound design. Cari amici di DVL e accumulatori compulsivi di contenuti multimediali localizzati, bentornati alla mia rubrica Passione Sound Design. Come di consueto io sono il vostro sound designer Carlo Burigana, che anche stavolta vi condurrà in un bel viaggio. A dirla tutta, più che un viaggio, questa volta affronteremo insieme un vero e proprio tuffo nel passato. Un passato videoludico che risale a 7 anni or sono e che alcuni di voi potrebbero definire addirittura un ricordo ormai sbiadito. Vi condurrò infatti in un regno governato da un sovrano maledetto, contrastato dalla spada di una sola donna coraggiosa. Seguitemi quindi in un'analisi del comparto sonoro di Heavenly Sword. Heavenly Sword è un titolo sviluppato dai ragazzi inglesi di Ninja Theory, che ha sede a Cambridge, in Inghilterra. Conosciuta dapprima come Just Add Monsters, la software house cambiò nome nel 2003, anno in cui diede vita ad uno scanzonatissimo picchiaduro esclusivo per Xbox, Kung Fu Chaos, nonché il suo primo titolo destinato alle console casalinghe. Il titolo passò piuttosto inosservato e ricevette dalla critica un benvenuto non proprio incoraggiante, nonostante la sua matrice caciarona e il suo peculiare design di livelli e personaggi. Dopo 4 anni dalla loro opera prima, i Ninja Theory ci riprovano con Heavenly Sword, in esclusiva per una PlayStation 3 disponibile soltanto da pochi mesi sul mercato europeo. Il titolo ha rappresentato una sfida in tutti i sensi per il team di sviluppo, nonché un salasso economico non indifferente che ha superato i 20 milioni di dollari investiti. Every lifetime has one moment. Heavenly Sword ci propone una protagonista aggraziata ma dall'aspetto austero, Nariko, una giovane guerriera dalla lunga chioma rossa, una creatura destinata a brandire la potentissima Heavenly Sword, una lama benedetta dagli dei capace di decimare interi eserciti e che, stando alle profezie, avrebbe condotto la sua gente verso la libertà. Il titolo è davvero ben realizzato dal punto di vista estetico e fin dalle prime battute sorprende il giocatore con i suoi enormi paesaggi, con battaglie corali e con scene di intermezzo dal sapore fortemente cinematografico. Ad avvalorare gli eventi sullo schermo c'è il gran lavoro svolto dal cast di attori provenienti dal cinema e dalle serie TV, che si sono prestati sia alle fasi di motion capture che al doppiaggio dei loro personaggi. We have to find my father. Nel ruolo della protagonista Nariko troviamo ad esempio la bella Anna Torv, già vista recitare in serie di successo come Fringe o The Pacific. If what is written is true, its power will soon drain my life force and it will kill me. By wielding it, I have become a ghost of flesh and blood. But really, what was I before? Mentre ad interpretare il re Boan c'è Andy Serkis, grandissimo caratterista tanto caro ai fan del Signore degli Anelli e lo Hobbit, in cui ha dato vita al celebre Gollum. Tra tutte bisogna riconoscere che la sua interpretazione del folle re Boan è davvero eccezionale. Ascoltiamola insieme. There's something about that man I don't entirely trust. Dear Shin. You see, my sole purpose is to bring order to the disparate tribes of this land. Would you allow your people to suffer, all for the sake of your silly pagan beliefs? Del titolo non stupisce soltanto la fattura originale, anche la controparte italiana ha molto da dire. Heavenly Sword propone infatti un cast di doppiaggio che potrei definire quasi un dream team. Nel ruolo della protagonista Nariko troviamo Chiara Colizzi, voce di Uma Thurman e Nicole Kidman, che ha lavorato anche su titoli un po' più datati come Beyond Good and Evil, in cui prestava la voce alla protagonista Jade, e Fallout 3, in cui doppiava la dottoressa Lee. Porta questo messaggio al tuo ripugnante padrone! Se sei un vero guerriero, se hai il coraggio, vieni qui e incrocia la tua spada con le nostre! Siamo pronti, Boan! Ti stiamo aspettando! Sul personaggio di Re Boan troviamo invece Nino Prester, voce di Gary Oldman e Jean Reno. Uccidetela! Fatela a pezzi! Questo è il mio ordine! Nel cast di doppiaggio italiano figurano anche nomi d'eccezione come quello di Roberto Pedicini, voce di Kevin Spacey e Jim Carrey, che nel titolo doppia il bizzarro generale Volpe Volante. Qualcosa ha parlato? Sento un tremendo odore di viscido. Oh, e per quelli che se lo stessero chiedendo, sì, Roberto Pedicini doppia anche la controparte digitale di Kevin Spacey in Call of Duty Advanced Warfare. Democrazia. Democrazia. Questa gente non ha bisogno di democrazia, non la vuole neanche. Un altro nome di peso nella lista dei doppiatori italiani è quello di Ennio Coltorti nel ruolo di Shen, il padre di Nariko. Buon, sempre a desiderare ciò che non comprendi. Ma più conosciuto per aver prestato la voce ad attori come William Defoe e Harvey Keitel, anche se i nerd come me lo ricorderanno sicuramente come il tenebroso agente Smith in Matrix. Lo senti quello, signor Anderson? Quello è il suono dell'inevitabilità. Ultimo, ma non meno importante, è Roberto Stocchi, voce di Michael Chiklis nel ruolo di Grugno. Bobby, Bobby! Ad oggi Roberto Stocchi rappresenta uno dei doppiatori e direttori del doppiaggio videoludico più utilizzati. Lo troviamo infatti in numerose altre produzioni, tra cui Trine, oppure lo spassosissimo Puppeteer, altro titolo esclusivo per PlayStation 3, in cui doppia il Re Orso, che ascoltiamo. Certo, ci avrei scommesso, quel pagliaccio! Lui è tigre. Inizio a pensare che i miei generali sono degli incompetenti! Il titolo vanta di un sound design ottimo e ricco di effetti sonori di battaglia che restituiscono appieno il fragore degli scontri di massa. In particolare sono ottimi i suoni scelti per le differenti incarnazioni della Heavenly Sword, che può essere utilizzata per attacchi rapidi a breve distanza, attacchi a lunga distanza e attacchi molto potenti. Il tutto accompagnato dalle note epiche e dal sapore orientale della colonna sonora composta da Nitin Somi ed eseguita niente poco di meno che dalla Filarmonica di Praga. Heavenly Sword ci stupisce anche per le strategie effettuate durante la campagna di lancio, che si è arricchita di una serie di cortometraggi animati che fungono da prequel delle avventure di Nariko e in cui ritroviamo a raccolta tutto il cast di doppiaggio del gioco, sia statunitense che italiano. Ascoltiamone un pezzetto. Gli uomini si dilaniavano a vicenda le membra per mettere le mani sul potere divino della spada. Uccidevano per averla, la usavano per compiere stragi e a loro volta venivano massacrati per averla impugnata. E vi garantisco che questo circolo di distruzione non ha potuto non suscitare l'ira degli dèi. Peccato solo che il titolo non abbia saputo far breccia nel cuore dei videogiocatori, ritagliandosi solo una fetta di grandi affezionati che hanno sempre sperato in un sequel, cosa che non è mai avvenuta. Le vendite del titolo, infatti, non sono servite neppure a coprire le spese di lavorazione, tanto che il cofondatore di Ninja Theory, Tamin Antoniades, in un'intervista si sarebbe dichiarato pentito di aver sviluppato un titolo così costoso in esclusiva per una sola console, per di più uscita sul mercato da così poco tempo. Scelta che infatti non si sarebbe più verificata e che 3 anni dopo avrebbe portato Ninja Theory a destinare il loro terzo titolo, Enslaved, al mercato multipiattaforma. Quando ti do il segnale, torna indietro, ok? No, no, no, cosa? Non posso! Fa come dico! No! Per concludere, l'ennesima curiosità legata a questo titolo. Forse non molti sapranno che Blockade Entertainment, in collaborazione con Sony e Ninja Theory, per qualche ragione ha deciso di produrre anche un lungometraggio animato basato sui fatti del gioco, uscito lo scorso settembre. Il film riutilizza molti degli asset grafici e sonori già visti sul gioco, proponendo però un comparto visivo nel complesso piuttosto scadente. Il film, ad oggi, è stato distribuito solo in territorio americano. Bene amici, anche questo viaggio giunge al termine. Io vi do appuntamento come sempre alla prossima puntata di Passione Sound Design. Se avete suggerimenti, domande o richieste particolari, vi invito a contattarmi su dietrologiavideoludica.it o sul mio blog personale carlomix.blogspot.it. Alla prossima puntata! Oh, grazie Carlo che ci hai veramente riempito di note audio su Heavenly's Horde. Heavenly Sorrata sembrerebbe. Sorrata, esatto. Heavenly's Horde. No, devo dire che questi passioni sound design, che tra l'altro poi ritrovate dopo qualche giorno dall'uscita della puntata sul canale SoundCloud di Carlo Mix 79, quindi andatevelo a cercare, poi vabbè, in realtà troverete anche l'apposito articolo sul sito di DVL. Devo dire che stanno diventando sempre più tecnici, sempre più interessanti. Qui in particolare addirittura ha fatto una digressione anche storica su un gioco che tecnicamente non so se Alex te lo ricordi sto gioco. Faccio fatica a focalizzarlo in questo momento, però sì, e devo dire che comunque la rubrica è veramente bella. Mi piace tantissimo. Sì, infatti devo dire che da un tocco non da poco, insomma, arca dietrologia videoludica, perché comunque sì, è anche tecnicamente ben realizzata. Il gioco in realtà è un gioco che dal punto di vista del gameplay non è che tutti si sono granché cagati, diciamo la verità, però tecnicamente e artisticamente è veramente un gran gioco. È stato un gioco che lanciò praticamente quasi la PlayStation 3, quindi stiamo parlando insomma di diversi anni fa, e vabbè, la storia di questa ragazza con la spada maledetta, maledetta spada, insomma, vabbè, grazie. Quindi insomma Carlo, a questo punto, dato che non ci sono le 50 sfumature di Biggio, chiaramente no, ma ha fatto scioperato sta botta, andiamo direttamente alla posta, così poi salutiamo anche Alex e ci diciamo le cose belle che si dicono alla fine, ci diamo riferimenti, amore e affetto. Quindi vai con cara filosofia dietroludica. No. Carissima videologia dietroludica. No, non è così, no. Spettabile dietrologia videoludica. Vabbè, va. È uguale. Oh, anche questa rubrica di finta posta, in realtà abbiamo avuto la possibilità di metterci delle cose vere. Alcuni erano insulti, quelli ovviamente non li possiamo mettere, ma altri come Danilo Ciancio ci fa notare: ma a tratti, riferendosi all'ultima puntata, ma a tratti manca qualche traccia audio o sbagli? No, sbagli, non era proprio così. In realtà è vero che però non fa niente, cioè ragazzi, noi ci stiamo, voi dovete capire che allora, per andare dal punto A al punto B dovete far finta che sia stato detto qualcosa. Esatto. c'è un momento in cui Peppe per un minuto sparisce a un certo punto, quindi. Però in realtà voi dovete considerare due cose importanti: uno, fate le donazioni perché stiamo costruendo lo studio mobile e abbiamo già comprato dell'hardware e ancora altro hardware dovremo comprare quando sarà completo. Lo studio mobile è una Batmobile, in realtà. Esatto, non ci saranno più questi problemi, ce ne saranno altri nuovi, vediamo, stiamo sperimentando, perché poi adesso non lo diciamo perché nello specifico caso faremo cattiva pubblicità, ma in realtà stiamo sperimentando cose, quindi è giusto che ogni tanto abbozzate il fatto che ci possano essere dei problemi, ma voglio dire, è normale nei nostri podcast e vi abbiamo abituato pure troppo male, diciamo anche questo, insomma. Comunque vabbè, gratis staccio, esatto. dopo Natale ragazzi, quindi a gennaio, vedrete che le cose andranno molto meglio, perché purtroppo quando noi ci spostiamo a casa di Giuseppe, noi, se non abbiamo ancora completato ovviamente questo piccolo studiolo mobile che stiamo costruendo, insomma non è facile riuscire a microfonare con facilità tutto quanto, insomma, soprattutto. Quindi donate, è Natale. Posso aggiungere una cosa, visto che appunto anch'io nel mio piccolo mi incazzo e faccio podcast, ed è una cosa che magari la gente che ascolta non capisce ancora oggi. Nel 2014 è veramente un casino fare le cose fatte in un certo modo senza investire un sacco di risorse nell'attrezzatura. Purtroppo sì. Prima di tutto i sistemi di comunicazione di teleconferencing, come potrebbero essere Skype e Hangout, sono ancora acerbi e risentono veramente tantissimo di fattori non dipendenti dalla nostra volontà. E mi rendo conto che questa comunicazione, quella di fino adesso, è andato tutto perfetto, ma mi capita spesso di fare dei podcast in cui praticamente a un certo punto non sento nessuno, ognuno parla per sé ed è veramente un casino. E in più registrare l'audio con una buona qualità in più di una persona non è una cosa facile, E non è una cosa che fa da solo. Molta gente, secondo me, sottovaluta la, l'aspetto tecnico delle cose. Ed è passare da 0 a 8, da 0 a 6 è facilissimo, da 6 a 7 è un po' così, da 7 a 8 è un casino infernale. E oltre l'8 bisogna andare in studio di registrazione. Ed è una cosa che appunto vorrei sottolineare, perché magari uno non se ne accorge, dice: ma questo si sente male, ma questo rischio di questo. Sì, però uno lo fa per hobby, per cui non è che può mettersi lì a investire decine, se non centinaia di se non migliaia di euro per comprarsi tutte le attrezzature. Ci sta, soprattutto perché lo si fa di sera nel tempo libero, dopo che uno ha passato una giornata a lavorare. Però a questo punto mie considerazioni, che magari non erano neanche richieste. Pensa, Alex, che mentre che parlavi per un attimo mi è venuto in mente il mignottone. Non so perché, però però sì, è giusto. Sapete che esiste ancora l'indirizzo email di erminio.ottone@gmail.com che era stato creato per quell'occasione in tempo reale. Ma c'è anche l'utente Facebook, se non sbaglio. Sì, sì, sì, era servito per creare l'utente Facebook. Esatto. Vabbè, comunque sì, no, il problema è proprio questo, che se ognuno regista, diciamo, dalla propria postazione, c'è ancora questo problema, soprattutto con Skype, che da quando è diventato Microsoft facciamogli dei nemici così a sbafo. Però vabbè, diciamo che quando invece ci spostiamo per semplificare da una parte le cose, per avere ovviamente un usufrutto minore di banda e quindi avere più persone concentrate in un luogo, poi diventa complicato, perché se non si ha la giusta attrezzatura, quindi più microfoni e essere anche messi in un setup preciso in una certa maniera, insomma, con un po' d'attenzione, diventa veramente complicato. Però con Carlo, insomma, stiamo lavorando appunto all'acquisto di materiali che comportano esborso, però noi lo facciamo sempre, insomma, con passione. Se appunto ogni tanto vi capita che proprio avanzano 20 euro, andate sul sito di Italian Podcast Network, anche cioè, di meno, avanzano dei soldi, vabbè. No, 20 euro sarebbero giù, perché se voi donate 5 euro a noi ci arrivano neanche un euro e 80. Ah, perché insomma, c'è stata la tassa, certo, mortacci. Quindi, no, lo dico perché se buttate 5, cioè 5 euro li buttate, diciamo, quasi, è un peccato, insomma. Io ho visto, c'è uno che ha fatto una donazione di 2 euro, io lo ringrazio tantissimo, perché comunque è uno sforzo che lui ha fatto e lo riconosco, però veramente arriva niente, cioè non arriva praticamente niente. Anzi, devi pagare Simone la differenza. Anzi, PayPal mi ha scritto: oh, guarda che devi pagare la tassa su quello che ti ha regalato 2 euro. No, a parte questo, dico, insomma, ecco, se vi avanzano, andate su italianpodcastnetwork.it, c'è il pulsante per le donazioni, fate delle donazioni. Noi non facciamo le pippe che fanno gli altri, però insomma ci aiutano, diciamo così, in questa trasformazione, per concludere alla grande questa quinta stagione di IPN, che insomma penso che sia iniziata col botto dal punto di vista della programmazione, però abbiamo oggettivamente delle difficoltà dal punto di vista tecnico, proprio perché si sono allargati i processi di lavoro, insomma. Quindi è un po' necessario, insomma, che ci date una mano se volete, se no, però quando vi capita, no, non rompete i coglioni che qualcuno se salta un pochino, insomma, che magari c'è il noise gate che lo sega, però va bene, insomma. Vai. Poi il nostro gonzo berlinese ci dice: sto sentendo Mario D'Amore, esatto, no. Mario D'Amore, sto sentendo, ci vorrà un po', ecco, perfetto. No, ma gira pure la scaletta, tanto io me ne ricordo a memoria. Vedi che finisce sotto, sì, ma comincia sopra, però. Sto sentendo, ci vorrà un po'. Prima cosa, un pluso al nostro sardissimo, immagino sia un plauso, ma anche il pluso è bello, cioè, molto il pluso, un pluso, oggi, cioè, che oggi c'è il pluso. Il pluso per l'idea, davvero geniale. Non so, forse dice 50 sfumature di bigio, non lo so, non c'ho idea, non lo so, comunque forse la puntata. Perché sì, per la puntata, per il tema della puntata, sì. Davvero geniale, e a tutti i partecipanti per il contributo. Simone Pizzi, no, leggi bene, se hai detto pluso devi dire con ritbuto. Ah, con ritbuto, no, con ritbuto. Il contributo va bene adesso? Perfetto. Okay. Simone Pizzi, Giuseppe Saso e Chain Dog, Rome. Mi avete fatto riflettere, e da ex giocatore devo dire che la componente sociale è quella che più mia fa, vabbè, forse deve smettere di scrivere sull'iPhone o di pettarli, perché probabilmente comunque mi ha fatto smettere, essendo cresciuto negli anni 70, ho vissuto. Questo è normale. Leggi, no, non è anni 70. La fase, ah, anni 70. Io ti voglio bene, Mario, tu sei... Però cerchiamo... Allora, riassumila, va, forse sì. È meglio. Diceva che c'era molta aggregazione, allontanandomi dai nativi luoghi. Vabbè, insomma, lui praticamente giocava tanto, ma poi si ha smesso. Poi c'è stata l'apocalisse. Non lo so. Ho fatto troppo il sutto. Beh, dopo 70 anni è un po' come le 7 stelle d'Ocudo. Vabbè, 50, 70 anni di grigio. Vabbè, ringraziamo Mario, come ho detto, io l'ho già detto. Torneremo ovviamente a Berlino per parlare. Farci... Sì, quello sicuramente a Berlino ne abbiamo mangiato come delle scimmie. Torneremo ovviamente a parlare anche di questi temi, insomma, sul quanto i videogiochi hanno influenzato, perché non fanno più parte della vita di ognuno di noi, come appunto ho detto già nell'osservatorio, partendo proprio da questo spunto che ha dato Alex. Quindi ecco, poi rinvidiamo Alex magari a partecipare anche a ulteriori riflessioni. Però ci sono recensioni su YouTube, no? E non l'abbiamo neanche fatte noi, quella è la cosa no, bella. No, infatti è quella la cosa bella. Quindi ci scrive Funne 86. Ottone. No, Funne 86, che dice V dietrologia videoludica, che dovrebbe essere viva. Ottimo e divertente, come tutti i podcast videoludici di IPN, guidati dal davvero bravissimo Simone Pizzi. Grazie. Lui guidatore. Gli episodi sembrano lunghi, ma sono un paio d'ore che passano in modo davvero piacevole. In realtà adesso sono un po' di meno normalmente. È bello sentir parlare di videogiochi da persone competenti. Allora, cioè, va bene. Non fanno solite recensioni perché non ne siamo capaci. Ma trattano, questo l'ho messo io, ma era sottinteso. Ma trattano argomenti specifici e hanno specifici, non sanno neanche parlare, figuriamoci leggere, e hanno la visione storica dell'evoluzione di questo media. Complimenti a tutti voi e continuate così. Grazie. No, grazie. Grazie Funne. Mi è venuto anche emozionato. Poi c'è Valesu, che è Valesu. Finalmente un podcast sui videogiochi diverso, anzi va letto così. Finalmente un podcast sui videogiochi diverso, un po' così. Che è questo? Che è? Così, vabbè, non è il solito podcast di recensione di videogiochi, no, ma si parla del mondo videoludico a tutto tondo. Quindi vabbè, dai, belle recensioni. Bella, tanto poi che non ricevamo recensioni. Pensa che la prima puntata di questa stagione ci domandavamo: ma qualcuno si è accorto che stiamo a fare dietrologia videoludica? Secondo me adesso si stanno accorto. Anche se, come ho detto nella puntata precedente, insomma, qualcuno dice che siamo un podcast sempre gradevole, quindi mi piace essere questo intrattenimento di sottofondo che uno mette quando sta al cesto, insomma, diciamo. Sì, anche quando tromba magari si sente noi, magari, che ne so. Bon, Alex. Simone. Non so, c'è una posta tua privata che vuole, tu c'è posta, oppure vuoi fare, non so, vuoi dire qualcosa, dare i tuoi riferimenti, così ci andiamo a salutare, insomma. Ma sì, se posso ringraziarti, no, comunque veramente per, no, per... sono io che ringrazio voi, è stato molto bello tornare, è stato molto bello sentire dalle vostre bocche direttamente queste insomma, le considerazioni, che ovviamente ogni volta sono sempre diverse da come pensavo. Cioè, questa puntata l'avevo immaginata in un modo ed è cresciuto in un altro, e sono anche molto più contento così. Se qualcuno vuole cercarmi, sono Alex Raccuglia, mi trova abbastanza facilmente cercando su Google quello che faccio. Ho 18, cioè ho 3 o 4 account Twitter a livelli crescenti di privacy. Mignottone, cioè, sì, sì, a livelli crescenti di privacy, perché più dico minchiate, più cerco di mascherarmi. Ah, ok. E boh, sto sviluppando un'applicazione per i podcast, cioè per i podcaster, si chiama Podcleaner, cercatela, podcleaner.com. Siamo in public beta, cioè se volete scaricarvela così per provare. Per adesso è solo per Mac, all'inizio dell'anno prossimo sarà anche per Windows. Vabbè, insomma, andate a vedere se vi interessa, se no easy, ci frega che è per Mac, insomma. Poi vabbè, anche qualche podcast al quale ovviamente collabori tranquillamente. Ah, beh, collaboro con Apple Horizon, che tra l'altro fa parte della famiglia di IPN. Ho una rubrica fissa che si chiama Audio Video & Co, in cui dico cose sul mondo dell'audio video. E poi sono fisso su Justin Apple, cioè praticamente partecipo al 90% delle puntate, se non quando sto per morire, e dico minchiate sul mondo Apple. Ma insomma, generalmente dico minchiate nei podcast. Vabbè, quella è la cosa più importante. Esatto. Va bene, grazie Alex. No, grazie a voi, è stato molto bello ritrovarvi. Noi diciamo, poi tu Marco Gualdi lo trovate, addirittura lo trovate pure su Twitter con Gioconno. È Gioconno. Quindi Gioconno con la J. poi con la K e poi finale. Esatto, con la K finale. Io dico, cercatevelo se lo trovate. Beh, se no sono questi cazzi. Sono anche col mio nome, per cui posso anche cercare. Anche Marco Gualdi, poi è Giocorno. Sarebbe Et Giocorno. Ma vuol dire che c'hai solo un follower e io sono il tuo secondo follower. Che esatto, bello. Sì, il primo so io. Quindi. Prima è lui. Sì, ho visto che. Ma non lo usa, quindi. Cioè, no, niente. Però ce l'ha, dai, ce l'ha. Ma più che altro mettere il copyright al nome. Perché Giocorno è il suo personaggio videoludico in definitiva. Va bene, allora www.dietrologiavideoludica.it, Dietrologia Videoludica lo trovate su Facebook e Google Plus, dove ci scrive sempre il famoso William Shatner, che ancora c'è, finché c'è ancora, lo scrive. Negli ultimi giorni no, lo sai, mi che sto preoccupando, no, vedo, infatti sì, esatto, poi dobbiamo scrivere. Si è buttato, da quando si è buttato l'acqua ghiacciata addosso, ah, pure lui l'ha fatta, lui l'ha fatta, secondo me c'è rimasto. Ok, e su iTunes cercate Dietrologia Videoludica, abbonatevi, se volete scriveteci anche a dietrologiavideoludica@gmail.com. lo so, non stiamo più pubblicando video, portate pazienza, purtroppo tutto quanto non possiamo fare, tanto li vedevano solo quegli 80 cristi che mentre che quelli che strillano e fanno le scoregge hanno migliaia di visualizzazioni, noi rimanevamo sempre lì, quindi a quel punto troppe sforzi, troppe risorse per troppo poco risultato, preferiamo continuare a fare il podcast, che è quello che ci riesce meglio. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao Alex. Ciao. Flawless victory. Ciao, amici. Welcome to the Room to Gamer. Insomma, in questo gioco viene raccontata una storia veramente intrigante. Una storia familiare, no? Che si snoda nell'arco di due generazioni. Bello! Allora c'è stata la vita, la morte, l'amore, il tradimento. Interessante! E lo sfondo è la Seconda Guerra Mondiale. Quindi ci stanno i bombardamenti, ci stanno i rastrellamenti e quindi subqueste di ogni sorta. Particolare, sì. Tutto visto dalla parte del ragazzino che poi cresce, no? E fa la guerra, viene catturato dai nazisti, però poi torna a casa, mette su famiglia e fino ad arrivare ad aiutare a lavorare il figlio, che nel frattempo si era aperta un'attività commerciale che però va in crisi. L'hanno definito il capolavoro di questa generazione. È una storia toccante. C'è un gameplay avvincente, innovativo. È un mondo procedurale, no? Open world. Niente a che fare con quei giochi che si binari della morta, no? No, ma mi sembra davvero un bel gioco. Ma mi spieghi perché sono 40 minuti che stai dentro al bosco a raccogliere le bacche? Perché ti ho detto, sto gioco è open world. Si può fare tutto. Vabbè, ma la storia, l'emozione di scoprire la trama. Ma che cazzo mi frega, ci stanno le bacche da raccogliere. Hai capito, Simone, le bacche. Se ne raccoglie abbastanza ci può fare pure il succo di frutta e vendere le truppe. Non lo so, mi sembra riduttivo fermarsi a sta features quando c'è sta una bella avventura da giocare. Ma le bacche, le puoi coltivare? Sblocchi l'abilità apposita ad un certo punto. Levate, fammi giocare a me, che me voglio divertire a coltivare le bacche velenose e mannà in cagotto tutte le truppe. E t'ho detto che sto gioco è un capolavoro. I have been fed, that's a fact. I have been fed, that's a fact. My credit card purchases get me cash back. My credit card purchases get me cash back. No one else gets these rewards. Sergeant, that is just plain untrue. What in tarnation? Sir, PenFed's PowerCash Rewards Card isn't just for military members. Anyone can get cash back on all purchases. Ah, figgins! You've ruined my favorite song. PenFed Credit Union. Visit PenFed.org/PowerCash. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA. I have been fed, that's a fact. I have been fed, that's a fact. My credit card purchases get me cash back. My credit card purchases get me cash back. No one else gets these rewards. Sergeant, that is just plain untrue. What in tarnation? Sir, PenFed's PowerCash Rewards Card isn't just for military members. Anyone can get cash back on all purchases. Ah, friggin'!